Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Galbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. George e Suzanne camminavano adagio tra la folla. Molti si voltavano a guardare quel bel giovane con quella incantevole pupattola. Un noto pittore osservò: «Bella coppia, fa piacere vederla». George pensava: «Se fossi stato davvero in gamba, ecco chi avrei dovuto sposare. Non era mica impossibile, dopo tutto. Perché non ci ho pensato? Perché ho preso l'altra? Che sciocchezza la mia! Si agisce sempre troppo precipitosamente, non si riflette mai abbastanza». E l'invidia, un'amara invidia, gli cadeva goccia a goccia nell'animo, come un fiele capace di corrompergli ogni gioia, di rendergli odiosa l'esistenza. Suzanne diceva: «Oh, venga a trovarci spesso, Bellamy. Faremo pazzie ora che papà è così ricco. Ci divertiremo come matti». Rispose, continuando a inseguire i suoi pensieri: «Oh, lei adesso si mariterà. Sposerà qualche principe azzurro, magari un po' rovinatino, e noi non avremo più molte occasioni di vederci». Lei esclamò sincera: «Oh no, non ancora. Voglio qualcuno che mi piaccia molto, che mi piaccia sotto ogni punto di vista. Sono abbastanza ricca per due». Lui sorrideva ad un sorriso ironico e sprezzante e le indicò per nome la gente che stava passando. Tutti tizi di purissimo sangue blu che avevano venduto i loro titoli ormai arrugginiti a figlie di capitalisti come lei e che ora vivevano vicini o lontani dalle mogli, ma liberi, impudenti, famosi e rispettati. Concluse: «Non le do 6 mesi di tempo che già avrà abboccato a quell'amo. Lei sarà la signora marchesa, la signora duchessa o la signora principessa e mi guarderà dall'alto in basso, signorinella mia». Suzanne si indignava e gli batteva il ventaglio sul braccio. Giurava che si sarebbe sposata soltanto per amore. Lui ridacchiava: «Staremo a vedere, è troppo ricca». Gli rispose: «Ma anche lei è ricco, ha avuto un'eredità?» Lui fece un «oh» di commiserazione. «Figuriamoci, appena 20.000 franchi di rendita. Non è una cifra enorme coi tempi che corrono». «Ma sua moglie ha ereditato anche lei?» «Già, 1.000.000 in 2. Rendita totale 40.000 franchi. Nemmeno tanto da poter avere una carrozza nostra». La sua compagna non parlava più, un poco pensierosa. La guardò con la coda dell'occhio e pensò un'altra volta: «Bastava sposar questa marionetta di carne». Ma Suzanne d'un tratto parve risvegliarsi. «Attento!» disse. Spinse George attraverso un gruppo di persone che sbarravano la strada e lo fece svoltare bruscamente a destra. In mezzo a un boschetto di piante strane che levavano in aria le loro foglie tremolanti, aperte come mani dalle dita affusolate, si scorgeva un uomo immobile, ritto sul mare. L'effetto era sorprendente. Il quadro, coi lati nascosti tra le semoventi verzure, pareva una nera finestra aperta su un fantastico, affascinante orizzonte. Occorreva guardar bene per capire. La cornice tagliava a mezzo la barca dove si trovavano gli apostoli, appena rischiarati dai raggi obliqui d'una lanterna, la cui luce veniva proiettata da uno di loro, seduto sul bordo dell'imbarcazione, su Gesù, che stava avvicinandosi. Cristo avanzava sulle onde che vedevi fendersi, obbedienti, appianarsi carezzevoli sotto i piedi divini che le calpestavano. Tutto era buio intorno all'uomo Dio. Soltanto le stelle brillavano in cielo. A George, d'un tratto, parve di udire una voce che diceva: «È la Roche con la signora Duroy». Queste parole gli sfiorarono l'orecchio come suoni lontani portati dal vento. Da dove provenivano? Scrutò da tutte le parti e scorse sua moglie che stava infatti passando a braccetto del ministro. Parlavano tra di loro a bassa voce, confidenzialmente e scambiandosi sorrisi, gli occhi negli occhi. Ebbe l'impressione che gli invitati stessero osservandoli, mormorando sul loro conto. E subito gli venne una voglia stupida e belluina di saltare addosso a quei due e di massacrarli di pugni. Sua moglie stava rendendolo ridicolo, pensò a Forestier. Forse già si diceva all'intorno quel becco di Duroy. Chi era sua moglie? Una piccola parvenue, abbastanza dritta ma priva di grandi risorse, a dire il vero. S'andava da lui perché era temuto, perché sentivano che era forte. Ma in privato non dovevano certo peritarsi troppo di parlar di loro come d'una misera coppia di gazzettieri. Non avrebbe mai potuto far troppa strada con una moglie così, che rendeva casa sua sempre un tantino equivoca. Madeleine era diventata per lui ormai una palla al piede. Un tizio salutò Suzanne, uno spilungone con un paio di favoriti biondi, un po' stempiato, tutto impregnato di quella mondanità che si nota dovunque. Georges ne udì mormorare il nome, il marchese de Cazolles, e provò un subitaneo senso di gelosia verso costui. Da quando lo conosceva lei? Da quando era diventata una riccona, senza dubbio. Nasò subito in quello un pretendente. Qualcuno prese Georges a braccetto. Era Norbert de Varenne. Il vecchio poeta portava a spasso la sua chioma bisunta e il suo abito liso con aria apatica e stracca. «E questo lo chiamano divertirsi», disse. «Fra poco si ballerà, poi s'andrà a letto e le ragazzine saranno contente. Prenda dello champagne, è ottimo!» Si fece riempire un bicchiere e, toccando l'altro preso da Duroy, «Brindo», disse, «alla rivalsa dello spirito sui milioni». Poi soggiunse con voce melliflua, «Oh, badi, mica lo dico perché mi dispiaccia vederli in tasche altrui, o per astio. Protesto così, per principio». Georges non lo ascoltava più. Cercava Suzanne, che era sparita col marchese de Cazolles, e, lasciato bruscamente Norbert de Varenne, si mise a caccia della fanciulla. Una voce mormorò, «Georges!» Era la signora Walter che continuò sottovoce. «Oh, quant'è selvaggiamente crudele! Perché mi fa soffrire senza scopo? Ho pregato Suzette di portare con sé la donna che l'accompagnava per poterle dire una parola. Mi ascolti, è necessario che le parli stasera stessa, altrimenti lei non può sapere quel che son capace di fare. Vada nella serra. Vi troverà a sinistra un uscio e di lì esca in giardino. Segua il viale di fronte. In fondo troverà un capanno. Mi aspetti là tra 10 minuti. Se non obbedisce, le giuro che farò uno scandalo qui, subito!» Lui rispose altezzoso, «Sta bene. Fra 10 minuti sarò dove lei m'ha indicato». Distingueva da ambo i lati degli arbusti spogli coi rami sottili smossi dalla brezza. Riverberi grigi trascorrevano fra quei rami, riverberi che provenivano dalle finestre del palazzo. Scorse qualcosa di bianco in mezzo al sentiero davanti a sé e la signora Walter, con le braccia e il petto scoperti, balbettò fremente. «Ah, sei qui! Vuoi dunque uccidermi?» Lui rispose tranquillo. «Ti prego, niente tragedie, eh?» Lei gli si era appesa al collo e bocca contro bocca diceva: «Ma che t'ho fatto? Ti comporti con me come un miserabile. Che t'ho fatto?» Lui la guardava pieno di stupore. Non era più la bambocciona piena di grilli che aveva conosciuto, ma una donna smarrita, disperata, capace di tutto. Un vago progetto, tuttavia, stava maturandogli nella mente. Rispose: «Cara, l'amore non è eterno. Ci si prende e ci si lascia. Ma quando dura troppo, come fra noi due, diventa una catena terribile. Io non la sopporto più, questa è la verità. Però, se riuscirai ad essere ragionevole e a considerarmi soltanto un amico, tornerò a casa tua come un tempo. Te la senti?» Lei posò le braccia nude sull'abito nero di Georges e mormorò: «Sono disposta a tutto pur di vederti». «Allora d'accordo, noi saremo due amici e nulla più», lei balbettò. «D'accordo», poi porgendogli la bocca: «Ancora un bacio, l'ultimo». Lui rifiutò dolcemente. No, bisogna rispettare i patti. Lei si voltò asciugandosi le lacrime. Poi trasse dal corpetto un pacchettino legato con un nastro di seta rosa e lo offrì a Duroy. Tieni, è la tua parte di profitto sul prestito marocchino. Ero così contenta d'aver guadagnato questi soldi per te. Tieni, prendili. Duroy si mise in cerca della moglie. La scorse dopo un po', intenta a bere una tazzina di cioccolata al buffet con due sconosciuti. Lei presentò loro il marito, senza dire il nome dei due tizi. Dopo qualche istante lui domandò: «Andiamo? Quando vuoi?» Lei gli prese il braccio e attraversarono le sale dove il pubblico s'era ormai diradato. Strada facendo rimasero zitti. Ma appena entrati in camera, Madeleine, sorridendo, gli disse senza nemmeno togliersi il velo: «Sai, ho una sorpresa per te!» Lui brontolò di cattivo umore. «Che c'è?» «Indovina?» «Perché dovrei far questa fatica?» «Ebbene, dopodomani è il 1° gennaio.» «Già, è il giorno delle strenne?» «Già.» «Eccone una per te. Me l'ha consegnata la Roche un momento fa.» Gli consegnò una scatoletta nera che pareva un astuccio da gioielli. Lui la aprì con indifferenza e scorse la croce della Legion d'Onore. Impallidì un poco, poi sorrise e disse: «Avrei preferito una decina di milioni, non si è sciupato.» Lei s'aspettava che George saltasse di gioia e si irritò davanti a tanta freddezza. «Sei un uomo incredibile, sei sempre scontento di tutto adesso.» Lui rispose calmo: «Costui non fa che pagare un suo debito, ma mi deve ancora ben altro.» Lei si stupì di quel tono e riprese: «Però è bello, alla tua età.» Lui fece: «Tutto è relativo. Avrei dovuto aver di più oggi.» Prese l'astuccio, lo posò aperto sul caminetto, considerò per qualche attimo la stella brillante che vi giaceva dentro, poi lo richiuse e se ne andò a letto con un'alzata di spalle. Il giorno dopo ricevette un biglietto della padrona che lo supplicava ad andare a cena da lei quella stessa sera con sua moglie per festeggiare l'onorificenza. Esitò un poco, poi, buttato nel fuoco il biglietto scritto in termini ambigui, disse a Madeleine: «Stasera ceneremo dai Voltaire.» Lei si stupì. «Toh, credevo che tu non volessi metter più piede in quella casa.» Lui si limitò a mormorare: «Ho cambiato idea.» Quando giunsero, la padrona era sola nel salottino Luigi XVI, vestita di nero, s'era incipriata i capelli, il che la rendeva interessantissima. Aveva l'aria da lontano d'una vecchia, da vicino d'una giovane, e se la si osservava bene, d'un grazioso tranello per gli occhi. La cena fu piuttosto triste. Soltanto Suzanne continuava a chiacchierare senza posa. Rose pareva preoccupata. Il nostro giornalista ricevette molte congratulazioni. Poi si misero a passeggiare su e giù da una sala all'altra, conversando, ed entrarono nella serra. Duroy camminava dietro gli altri con la padrona. Voltaire, che camminava avanti con le figliole e con Madeleine, aspettò Duroy presso il Gesù che cammina sulle acque. «Ma vuol saperne una?» disse ridendo. «Ieri ho trovato mia moglie in ginocchio davanti a questo quadro come in una cappella. Diceva le sue orazioni. Che risate mi son fatto!» La signora Voltaire replicò con voce ferma, con voce vibrante di segreta esaltazione: «Sarà proprio questa immagine di Cristo a salvar la mia anima!» E fermatasi davanti al figlio di Dio in piedi sul mare, mormorò: «Com'è bello! Quanto amore, quanto timore ispira agli uomini che lo seguono. Guardatene il volto, gli occhi, come semplice e soprannaturale a un tempo.» Suzanne esclamò: «Ma sa che le rassomiglia, Bellamy?» «Le rassomiglia, ne sono certa. Se lei avesse un paio di favoriti, o se lui fosse rasato, sareste eguali come due gocce d'acqua. Oh, ma è impressionante!» Volle che George si mettesse in piedi accanto al quadro e tutti quanti dovettero ammettere che si rassomigliavano molto. Rimasero stupiti. Voltaire trovò il fatto stranissimo, Madeleine, con un sorriso, affermò che Gesù aveva un aspetto più virile. La signora Walter se ne stava immobile, fissando attonita il volto dell'amante accanto a quello di Cristo, sbiancata in viso, più dei suoi bianchi capelli. Sulla fine di marzo si sparse ad un tratto la voce del matrimonio delle due sorelle. Rose doveva sposare, stando ai si dice, il conte de la Tour Yvelin e Suzanne il marchese de Cazolles. Questi due tizi erano diventati intimi nella casa e come tali godevano di particolari attenzioni e di notevoli prerogative. George e Suzanne vivevano in una specie di fraterna e libera intrinsechezza, chiacchieravano insieme per ore e ore, si burlavano di tutti quanti e pareva che se li intendessero molto. Mai loro due avevano più parlato d'un possibile matrimonio della fanciulla o dei pretendenti che si facevano avanti. Un mattino che il padrone aveva portato a casa a Duroy per far colazione insieme, la signora Walter, dopo mangiato, fu chiamata per parlare con un fornitore. E Georges disse a Suzanne: «Andiamo a dare un po' di pane ai pesci rossi». Presero di sul tavolo un pezzo di mollica per uno e andarono nella serra. Tutto a un tratto, sottovoce, lui disse: «Non è bello agir sott'acqua con me, Suzanne». «Come, bel ami? Agir sott'acqua?» domandò lei. «Non ricorda quel che mi promise proprio qui la sera del ricevimento?» «No, io no». «Di consultarmi tutte le volte che uno chiede la sua mano?» «Ebbene?» «Ebbene, qualcuno gliel'ha chiesta». «E chi mai?» «Lo sa meglio di me». «No, le giuro». «Sì che lo sa, quel vanitosone del marchese de Cazolles». «Intanto non è un vanitoso». «Può darsi, ma è scemo, rovinato dal gioco e stremato dai bagordi. Bel partito per lei, così carina, così fresca e così intelligente». Lei domandò sorridendo: «Che ha contro di lui?» «Io? Nulla». «Ma sì, lei mi nasconde qualcosa». «Ma via, è uno sciocco e un intrigante». Lei si voltò un poco, smettendo di guardare nell'acqua. «Su, che le piglia?» Lui disse, come se gli avessero strappato un segreto dal profondo del cuore: mi piglia, che son geloso morto di lui!» Suzanne si stupì, ma non troppo. «Geloso lei?» «Sì, io». «To? E perché mai?» «Perché sono innamorato di lei, e lei lo sa, cattivona!» La fanciulla disse allora, seria: «Lei è matto, bell'ami». «Lo so da me che son matto. Fossi savio, non avrei certo fatto una confessione simile, io, uomo sposato, a una fanciulla come lei. Più che matto, son colpevole, quasi un miserabile. Non c'è nessuna speranza per me, e questo pensiero mi fa uscir di senno. Quando sento che lei sta per prender marito, mi vengono tali eccessi di furore che ammazzerei qualcuno». Si voltò di scatto e le disse quasi sul viso: «Se fossi libero, mi sposerebbe?» Lei rispose sincera: «Sì, bell'ami, la sposerei perché mi piace molto, più d'ogni altro». Lui si alzò balbettando: «Grazie, grazie. La supplico, non dica sì a nessuno. Aspetti ancora un po', la supplico. Me lo promette?» Lei mormorò un po' turbata e senza capire a cosa lui mirasse: «Glielo prometto». Elsa Galbato ha letto Bel'ami di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.